Il caos. Vi ricordate voi del caos? Voi non ve ne potete ricordare. L'era la più bella storia di questo mondo. Immaginatevi di vedere quattro braccia di buio mescolato con due occhiate di luce. Un pozzo d'acqua in un cammino di fuoco. Una cantina che andava in trampoli sopra una colombaia. Un pezzo di terra che serviva per baldacchino all'aria. Un pezzo di cielo che affogava nell'acqua. Un naso spagnuolo fra due chiappe francesi. Uno scaldaletto pieno di ghiaccio. Una gelatina sullo scaldavivande. Una bizzarria d'un cedrato che, scambio di mezzo limone e di mezza melarancia, fosse composto mezzo di suocera e mezzo di nuora. E tutta questa congerie, che non aveva ancor fatta la digestione, era legata con del piombo e del sughero e con una funata di cani e gatti, di lupi e agnelli, di preti e frati e di padri spilorci e figliuoli prodighi. Lorenzo Panciatichi.